America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24, da New York Mario Platero. Intanto una notizia: la legge dell'Arizona contro gli immigrati illegali è stata sospesa nella notte da un giudice federale, Susan Bolton, a poche ore dalla sua applicazione fissata per oggi. Le tensioni, le pressioni di cui vi parlavo ieri esplose in America attorno a questa legge, dunque hanno prodotto un risultato. Per ora gli arresti, le deportazioni degli immigrati illegali senza documenti saranno evitate. Finora in America la mancanza di documenti di immigrazione era ed è una violazione civile. L'Arizona invece la trasformava in un atto criminale, come vi dicevo appunto ieri. Però attenzione, perché la legge è stata solo sospesa, la partita resta aperta. 9 stati che volevano imitare l'Arizona dovranno attendere. Le tensioni fra governo federale, dunque Obama contrario a questa legge, e gli stati salirà. E però in attesa degli sviluppi, che dureranno immagino a questo punto parecchi mesi, vorrei concentrarmi su un altro tema, e per una volta vorrei affrontarlo in spagnolo. Il presidente Obama annunciò l'alleanza della italiana Fiat con Chrysler, che si accogerà alla ley de quiebras. Agregò che si tratta di una strategia per assicurare il futuro del gigante americano. Ecco, avete sentito la notizia che ha fatto il giro del mondo quando fu comunicata, e cioè la notizia della Fiat che entrava dentro la Chrysler e di fatto ne prendeva il controllo, quantomeno operativo, con una partecipazione azionaria importante, con il ruolo del governo americano. Una notizia che ha scatenato ovviamente mille reazioni. Qualcuno ci ha preso anche un po' in giro, come spesso succede qua in America. Ecco, sentite invece questo signore in inglese, un annunciatore di un telegiornale americano. Chrysler was given a deadline of 11:59 tonight to establish a restructuring plan with the UAW. Did that? Existing creditors? Not so much. And Fiat, it's a good! As the 11th hour approached, it became clear that Chrysler, the number 3 American car maker, was not going to meet the deadline and requirements. Questo signore ha fatto il verso alla Fiat, così come al solito spesso in America qualcuno ama prenderci un po' in giro, sempre in modo amichevole, ma non per questo meno sgradevole a volte. Ecco, una persona che invece ha creduto nelle possibilità della Fiat nel rimettere a posto la Chrysler è stato il presidente Barack Obama. Sentiamo il presidente quando parla di Chrysler e del suo futuro. No one should be confused about what a bankruptcy process means. This is not a sign of weakness, but rather one more step on a clearly charted path to Chrysler's revival. Barack Obama qui spiega come la Chrysler dovrà essere rilanciata, come sarà importantissimo per la tenuta del settore industriale americano, del settore manifatturiero americano e dell'indotto del settore automobilistico, che va a occupare centinaia di migliaia di lavoratori, addirittura fino a 1 milione di persone. Ecco, come sarebbe stato assolutamente importante e decisivo tenerlo in vita. E dunque spiegava in questa registrazione che vi ho fatto ascoltare il perché degli interventi governativi. So I recognize that the path we're taking is hard, but as is often the case, the hard path is the right one. The hard road is often the harder. Spesso la strada dura diventa anche durissima, la più difficile, però la strada più difficile è quella che poi ci porta a una soluzione. Perché vi sto raccontando tutto questo? Beh, perché domani il presidente Barack Obama andrà in visita a Detroit, andrà in visita alla Chrysler, si incontrerà con Sergio Marchionne, l'amministratore delegato di Fiat e della Chrysler, a suggellare quello che è stato un intervento dello Stato che il presidente Barack Obama vuole dimostrare aver già funzionato. Ecco, in tutto questo che finora ha funzionato bene c'è un'incognita, che è un'incognita che va al di là di Obama, al di là di Marchionne e al di là del settore auto, e cioè l'andamento dell'economia americana. In realtà non avrei dovuto dire al di là di Barack Obama, perché in questo Barack Obama gioca un ruolo molto molto importante. C'è un neo nella storia recente di Barack Obama, questo neo è il suo rapporto con il mondo del business. Miranda Priestly is the editor in chief of Runway. So you don't read Runway? No. Not to mention a legend. And before today you'd never heard of me? No. You work a year for her and you can get a job at any magazine you want. You have no style or sense of fashion. No, that wasn't a question. Bene, se non l'avete capito, se non l'avete indovinato, questa che vi ho proposto è una scena tratta dal film Il diavolo veste Prada, una presa in giro, devo dire, venuta benissimo, di Anna Wintour, la storica e leggendaria, come dice lo stesso trailer, direttrice di Vogue America, una delle donne più potenti del mondo in materia di moda. Beh, cosa ha a che fare Anna Wintour con Barack Obama? Il povero Barack Obama, devo dire, andando a New York per fare una raccolta fondi, non ha trovato che Anna Wintour disponibile a organizzargli una cena per fare un fundraising. Una conferma che il suo rapporto con il mondo degli affari non è dei migliori. Le indiscrezioni ci dicono che alcuni banchieri interpellati hanno risposto di no, che non solo non avrebbero ospitato una cena in suo onore per raccogliere i fondi, ma che non avrebbero versato dei contributi per andare a questa cena, e quelli che potevano accettare hanno detto che l'avrebbero fatto solo a condizione di andare lì a lamentarsi per attaccare l'operato del presidente in materia economica e finanziaria. Dunque Barack Obama è un po' nel mirino degli imprenditori, dei manager, dei banchieri. Questa sua uscita a Detroit con la Chrysler chiaramente serve a cercare di addolcire un pochettino questo luogo comune che ormai si è consolidato negli Stati Uniti. È inutile, fino a quando non si riescono a sintonizzare questi due punti di vista, e cioè il punto di vista molto determinato, deciso, di un presidente che crede in modo convinto nel sistema pubblico, nel ruolo del pubblico, e invece un mondo degli affari che non crede nell'intervento del pubblico e crede invece nello stimolo del settore privato, magari attraverso concessioni fiscali. Ecco, fino a quando questo gap non sarà colmato, io credo che avremo un serio problema per riprendere con stabilità e solidità il tasso di crescita americano. Dunque l'andata di Barack Obama a Detroit è per rivendicare che l'intervento dello Stato, del governo, per salvare un'azienda in difficoltà ha funzionato, e che a Wall Street coloro che ritengono che invece questo presidente americano abbia sprecato col suo pacchetto di stimoli 787 miliardi di dollari, faranno bene a ricredersi. Dunque di tutto questo io gradirei parlare con Allen Sinai, uno dei più conosciuti economisti americani, spesso ascoltato in congresso, dove è andato più volte a testimoniare. Con lui vorrei cominciare proprio a parlare di Chrysler e governo americano. The president's visit to Chrysler is just to show that the use of the government with Chrysler and GM worked. Ecco, secondo Allen Sinai, l'operazione Chrysler è stata un'operazione positiva, ha funzionato. Barack Obama fa bene a rivendicare il merito di un suo intervento e di una sua azione, fa bene a farlo in modo così diretto, cioè visitando una fabbrica. Resta, secondo Allen Sinai, tuttavia un problema di fondo, e cioè che il cerotto che è stato messo sulla Chrysler non necessariamente servirà a far ripartire non soltanto il settore automobilistico, ma anche l'intera economia americana, perché prima deve ripartire l'economia, prima deve esserci una base di consumatori solidi, e poi deve in qualche modo inserirsi l'offerta di auto. Il ragionamento di Sinai è molto semplice: alla Chrysler è stata fatta una operazione di ridimensionamento, di ristrutturazione, per fronteggiare una domanda da parte del consumatore americano molto minore rispetto a quella di alcuni anni fa. Marchionne è riuscito a portare a termine questa operazione, la Chrysler è stata risanata, a questo punto si dovrà vedere come si torna sul mercato. E su questo, devo dirvi, ho raccolto un po' di indiscrezione. Direi che l'indiscrezione che circola con maggiore insistenza è che da qui a un paio d'anni, un anno, sei mesi, insomma, quando si dovranno prendere le decisioni rilevanti, la Fiat e la Chrysler si fonderanno. Marchionne quasi certamente resterà come quartieri generali a Detroit a guidare il nuovo gruppo Mega Chrysler, Chrysler Fiat, questa volta con quartiere generale sia a Torino che a Detroit. L'interesse della famiglia Agnelli è possibile che andrà un pochettino a diluirsi nel contesto della partecipazione azionaria, visto che ci sarà una fusione, visto che si andrà poi in borsa con la Chrysler. E dunque ci sono molte cose in divenire, molte cose importanti. I think from the point of view of what consumers can do and will do, it looks weak. The unemployment rate and joblessness in the United States. Ecco, Sinai ci lascia su una nota ottimistica. Secondo lui la borsa è sottovalutata, l'economia americana fatica e continuerà a faticare. Dal suo punto di vista si dovranno trovare dei metodi per poter stimolare l'economia più sul fronte fiscale che su quello della spesa del governo, proprio per evitare che si vadano ad accumulare dei disavanzi pubblici molto forti. Secondo lui è più conciliabile una riduzione fiscale con una politica di contenimento del disavanzo che non invece una semplice politica di spesa. Perché? Beh, perché secondo lui le riduzioni fiscali possono mettere in movimento un meccanismo economico sostenibile che porta a una crescita che poi continua e che produce occupazione, producendo occupazione produce reddito, reddito che viene tassato. La tesi è interessante e diametralmente opposta a quella del presidente americano, ma il guanto di sfida è lanciato. Nei prossimi mesi la partita americana si giocherà tutta sul dibattito economico. Bene, ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Ed eccoci alla canzone del giorno. Vorrei parlarvi dei Surfer Blood, un gruppo in ascesa nel panorama musicale americano perché sta riportando alla ribalta la musica surf, la musica per intenderci che trionfò con i Beach Boys, per esempio, negli anni 60. L'influenza di questo genere è particolarmente evidente nel disco di debutto dei Surfer Blood, Astro Coast, e nel single Swim, Nuotiamo. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!